9 in punto. Di nuovo buongiorno, dunque cari ascoltatori, e benvenuti a 9 in punto in una puntata nella quale, come si diceva, ci occupiamo di questo nuovo orfanello, il redditometro, che a questo punto non trova più paternità politica. Ci scrive su Twitter con l'hashtag 9 in punto Michela Latini: ok, lo dico, il redditometro è figlio mio, e più con una battuta. E invece più seriamente Faber Cricket scrive: come al solito sotto elezioni l'agenzia delle entrate rimane col cerino in mano. Che cosa succede? Che tutti stanno negando la paternità di questo strumento che dovrebbe servire a combattere l'evasione fiscale, e che proprio che suscita molte perplessità, ed è proprio questo il motivo per il quale la paternità di questo strumento viene negata da molti. Addirittura ieri l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti, insomma quello che teneva in mano le redini anche delle questioni fiscali, è arrivato a metterne in dubbio la costituzionalità. Ma sentiamo i principali due protagonisti di questa vicenda. Si sottopongono queste famiglie ad un esame accurato con, per esempio, il redditometro. Non so chi di voi ha già potuto vedere le 80 voci del redditometro, che è qualcosa da fare paura, una cosa da stato di polizia tributaria. Non credo che abbia un ruolo così importante, ma stiamo parlando di un'altra misura doverosa che è stata introdotta da chi ci ha preceduto e che ha punteggiato come altrettante bombe ad orologeria la strada di questo governo. Credo, quindi fosse stato per lei non avrebbe messo il redditometro? Fosse stato per me non credo che l'avrei messo. Può sempre toglierlo. È una cosa da valutare seriamente. Comunque sa, questo le dà l'idea di come abbiamo avuto un sentiero obbligato. Insomma, come scrive bene Guido Gentili oggi sul Sole 24 Ore, abbiamo un provvedimento operativo, ma sembra che sia caduto dal cielo al termine di un misterioso processo di autogenerazione. Niente male, insomma, come valutazione, per partenogenesi di Befera, se vogliamo. Comunque di questo vogliamo parlare, vogliamo capire se è uno strumento, come alcuni dicono, di oppressione fiscale, come abbiamo sentito, oppure insomma se anche secondo voi, se contro l'evasione va bene tutto, vanno bene anche controlli così puntuali, per quanto sia avvolto questo redditometro da una certa nebbia. Oggi dovrebbe arrivare una circolare esplicativa. Allora saluto i nostri ospiti, che sono innanzitutto Salvatore Padula, giornalista del Sole 24 Ore, che di questi temi si occupa costantemente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bruno Tinti, ex magistrato, ora editorialista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Tinti. Buongiorno a voi. E dovremmo avere tra poco Serena Sileoni, fellow dell'Istituto Bruno Leoni e docente di diritto all'Università di Firenze. Non siamo ancora riusciti a raggiungerla, insomma c'è qualche problema. Lo scrive, e inizierei dall'attribuire la paternità di questo redditometro, e lo farei con Salvatore Padula. In realtà lo fa già Guido Gentili oggi sul nostro quotidiano, sul Sole 24 Ore. La cosa è nei fatti, c'è un decreto, decreto 78 del 2010, e quindi pieno governo Berlusconi, nel quale viene istituito il redditometro. Poi c'è l'operatività data dal decreto ministeriale di Monti. Insomma, mi sembra che la paternità sia in dubbio, no? Sì, la paternità è in dubbio, ma in realtà devo dire che il padre del redditometro risale addirittura al 1932, perché a quell'epoca furono per la prima volta inseriti degli elementi di determinazione induttiva del reddito. Poi diciamo lo strumento molto più simile a quello che conosciamo oggi in realtà nasce nel 1973. Il redditometro è uno strumento che è stato utilizzato non ampiamente, ma utilizzato in modo rilevante dall'amministrazione in questi ultimi anni. nel 2010, come hai ricordato tu, governo Berlusconi in carica, è stato in qualche modo ripensato, rivisto, probabilmente potenziato, e poi, storia recente, il decreto di attuazione è di qualche giorno fa ed è stato firmato dal ministro dell'economia del, diciamo, attuale governo Monti. Quindi questa è, diciamo, in estrema che, sintesi, che è lo stesso, la lunga storia che è Vittorio Grilli, che è Vittorio Grilli. Sì. Certamente. Quindi insomma, i padri sono abbastanza chiari, anche se viene disconosciuto, e però presenta una serie di problemi. Innanzitutto, ne parlavamo ieri, insomma, Salvatore, prima di affrontare questa puntata, il fatto che tanto si parla di trasparenza in questo paese, tanto si parla della trasparenza, insomma, che deve partire dallo Stato, quanto è nebuloso al momento questo strumento, sperando nella circolare di oggi che dia un po' di chiarezza. Sì, ma guarda, io penso che il redditometro sia uno strumento sostanzialmente giusto, no? Lo metto veramente tra virgolette, no? Perché in qualche modo è giusto che l'amministrazione fiscale, che tra i suoi compiti ha anche quello, e soprattutto quello di andare, diciamo, di fare in modo che le tasse vengano pagate in modo giusto, equo da tutti, quindi è giusto che l'amministrazione abbia tra i suoi strumenti, ne abbia anche uno in grado di fotografare, determinare le cose più evidenti tra lo scostamento tra quanto uno consuma, tra quanto uno spende e quanto uno guadagna, perché se non partiamo da qui forse non mettiamo bene a fuoco la cosa. Cioè, io penso che non sia sbagliato dal punto di vista ideale lo strumento, tuttavia mi sembra che nel caso specifico siamo in presenza di uno strumento che è talmente articolato, talmente complesso, del quale probabilmente abbiamo anche noi, diciamo, che magari ce ne occupiamo in modo più assiduo, non abbiamo ancora capito tantissimo. Ecco, mi sembra che sia uno strumento, come dicevi tu, poco chiaro, poco trasparente. Questo mette angoscia nelle persone, mette ansia nelle persone, e penso questa sia la modalità assolutamente sbagliata per fare quello che a cui lo strumento serve, cioè cercare chi non paga le tasse, che è però, diciamo, una cosa giusta. Siamo un paese che ha più di 120 miliardi di tasse non pagate. Allora, da qui forse dobbiamo partire per capire se strumenti come il redditometro sono giusti o no. Io penso che lo siano. Poi però devono essere fatti in modo che la gente capisca come funzionano, la gente capisca che non ci deve essere accanimento contro nessuno, la gente capisca che il problema non è andare a curiosare in quello che uno fa, compro questo, compro quell'altro, non lo faccio, però il problema è semplicemente che è un elemento di equità, è un elemento fondamentale, soprattutto in questa fase, che lo Stato abbia a disposizione strumenti per fare in modo che le tasse le paghino tutti. Chiarissimo, sempre sul filo della battuta, mentre aspettiamo anche le vostre telefonate all'800 24 00 24, sempre sul filo della battuta, una grandissima scrittrice satirica, Lia Celi, con l'hashtag 9 in punto, scrive: il redditometro è figlio sia di Berlusconi che di Monti, e ci sorprendiamo che sia un mostro. Non male, non male. Allora, Bruno Tinti, voglio la sua posizione su questo tema. Secondo lei questo strumento va bene? Ci sono delle questioni che a me personalmente lasciano perplesso. Le dico: innanzitutto il fatto che il 70-80% degli articoli che si trovano sul tema redditometro hanno come titolo come difendersi dal redditometro, forse qualcosa che non va c'è. E poi la questione dell'inversione dell'onere della prova, che insomma, quando l'Agenzia delle Entrate viene a contestare lo scostamento delle spese rispetto al reddito dichiarato, sei tu che devi dire all'Agenzia delle Entrate ho speso perché ho incamerato soldi da altre parti, c'è il mio patrimonio e così via, se no vieni considerato un evasore. Questo non è un problema, Tinti? No, ma proprio, come dire, è veramente frutto non di disinformazione, ma di malafede. Però mi consenta di dirle una cosa: siamo alla ricerca del papà del redditometro. In realtà il papà del redditometro è il buon senso, Nella sua forma più elementare, il redditometro è l'espressione del cittadino che esce la mattina di casa e dice: ma guarda quello che c'ha la Ferrari e paga meno imposte di me che ho la 500. Questa è una forma elementare, brutale, di redditometro. Perché? Perché il redditometro, e qui quindi torniamo alla storia della inversione dell'onere della prova, non dà la patente di evasore a nessuno. È semplicemente un modo per verificare qual è la persona nei cui confronti fare delle indagini tributarie. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo la decimazione, girare per le strade e ogni 10 cittadini, magari ogni 100, ne prendiamo uno e gli diciamo: bene, adesso verifichiamo se tu paghi le imposte, anche se quello vende le caldarroste all'angolo della strada. È evidente che ci occorre uno strumento che permetta di utilizzare al meglio le, direi, scarse purtroppo risorse del fisco. Facciamo un accertamento nei confronti di chi più di altri ci dà l'impressione di evadere le imposte, poi forse non le evade. E come facciamo a identificare il nostro obiettivo? Credo che partiamo tutti dal presupposto che è giusto che le tasse vengano pagate, no? Dobbiamo quindi trovare chi probabilmente non le paga. Facciamo un conto banalissimo, che poi tecnologicamente vada affinato sempre di più, e questo redditometro tecnologicamente è un portento, non sono 80, sono 100. Abbiamo perso Bruno Tinti, è caduto, adesso cerchiamo di recuperarlo, perché intanto vorrei la valutazione di tutto questo. L'abbiamo recuperata. Serena Sileoni, fellow dell'Istituto Bruno Leoni e docente di diritto all'Università di Firenze, quindi insomma, un'altra giurista. Sileoni, lei cosa dice? Buongiorno. Guardi, là non capisco bene perché Bruno Tinti, ora mi dispiace che non ci stia ascoltando, parli di consenso come il padre del redditometro. Pare che l'abbiamo recuperato. Tinti c'è? Sì, benissimo, perfetto. Ecco, allora prego, Sileoni. Sinceramente mi sfugge questo passaggio, perché io posso anche comprendere da contribuente, comprendo la necessità, l'opportunità di sistemi di controllo e verifica per stanare gli evasori, che ci saranno comunque e in qualsiasi regime di tassazione. Non comprendo bene, comincio a comprendere un po' meno il fatto che il redditometro si inserisca in un sistema che per quantità della richiesta fiscale e per qualità del rapporto tra amministrazione fiscale e cittadini ci fa sembrare un po' tutti come dei mariuoli. La parola mariuoli non la dico io, l'ha detta un anno fa, prima di concludere il suo mandato, il garante della privacy Pizzetti, proprio a proposito di come l'amministrazione fiscale ci tratti. Allora, questa presunzione, mi dispiace, ma è così, per quanto ora poi la Cassazione abbia detto che è una presunzione semplice, ma questi sono dettagli e cavilli giuridici, ma questa presunzione è proprio logica, per cui dopo aver dovuto pagare la più alta quota di tassazione in Europa, dobbiamo anche stare attenti a tenerci tutti gli scontrini, non perché sia obbligatorio tenerli, questo è chiaro, ma perché se poi l'amministrazione fiscale ci chiama a chiedere conto del perché ci sono degli scostamenti, secondo lei, in maniera presuntiva, tra quello che abbiamo speso e quello che abbiamo dichiarato, è ovvio che io mi devo tenere tutti gli scontrini, specie quando le voci di spesa sono così dettagliate. Quindi è l'accumulo di uno strumento molto invasivo come il nuovo redditometro, insieme a procedure di accertamento, istruttoria, riscossione coattiva dei debiti, che creano evidentemente un rapporto di disparità del contribuente rispetto all'amministrazione fiscale. Penso soltanto alla esecutività della visita di accertamento, all'ingresso del contributo unificato, ai budget di risultato per l'Agenzia delle Entrate. Tutto questo effettivamente, non possiamo negarlo, ci fa credere che siamo un po' tutti mariuoli e forse appiattirà anche il nostro stile di vita, perché ci farà temere di comprare un'auto piuttosto che un'altra, di andare dal parrucchiere tutte le settimane piuttosto che una volta ogni 4 mesi. Questo tralasciando peraltro che per come è stato immaginato questo redditometro, ci sono anche dei profili di vera e propria incostituzionalità, a partire dall'effetto retroattivo. Noi ci troviamo uno strumento di accertamento sintetico retroattivo a partire dai redditi del 2009, e in questi tre anni, non sapendo che avrebbe funzionato così l'accertamento sintetico del redditometro, magari non ci siamo tenuti le ricevute, gli scontrini e quant'altro. Quindi alla faccia dello statuto del contribuente, questo tipo di accertamento prima di tutto è retroattivo, almeno per tre periodi finanziari, e poi disconosce completamente un principio molto caro alla Costituzione, che è quello del risparmio, perché si presumeranno spese effettuate con i redditi in corso d'anno. Ora, chiunque di noi ha comprato anche soltanto una macchina sa che i beni un po' cari si comprano con i risparmi accumulati negli anni. Chiarissima la sua posizione, Sileoni. A proposito di consumi, io non so che lavoro faccia, però sempre un ascoltatore, sempre via Twitter, con l'hashtag 9 in punto, dice: i miei clienti già si vedono le vendite di auto disdettate con causale redditometro, quindi c'è un punto di preoccupazione dal lato dei consumi. Voglio iniziare però con le telefonate, e abbiamo innanzitutto Massimo che ci chiama da Grosseto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Intanto grazie per la trasmissione, che aprite una porta destinata a tutti i cittadini, perché uno dei guai del nostro sistema è che le pubbliche autorità non ascoltano. Allora, una premessa essenziale: lo Stato e la pubblica amministrazione, quindi regioni, province eccetera, prelevano solo il 155% dello stipendio netto di un lavoratore. Già questo è una cosa allarmante e vergognosa. Per quanto riguarda il redditometro, è completamente sbagliato il concetto del redditometro. Siccome oggi siamo quasi nel 3000, abbiamo la possibilità con l'elettronica e l'informatica di registrare ciascuna singola operazione. Mi spiego: quando vado a prendere il caffè o vado a comprare la macchina, non con lo scontrino fiscale di carta, ma con uno strumento elettronico, può essere una penna USB o qualsiasi sistema, accoppiandolo al registratore di cassa del venditore, vengono scambiati dati tra chi compra e chi vende. Cosa vuol dire questo? Che io alla fine di un mese, 15 giorni, 6 mesi eccetera, ho nel mio strumento elettronico fiscale tutte le spese che ho fatto, che posso poi scaricare direttamente per l'agenzia delle entrate eccetera. Quindi c'è uno specchio esatto e preciso delle spese. Massimo, chiarissimo, perché insomma, il punto è che siamo ben lontani dal 3000, a dire la verità, per essere proprio precisi, mancano 988 anni, però, anzi 987, però insomma il concetto è chiaro. In realtà c'è una possibilità di tracciabilità, lei dice, diversa da quella di tenersi gli scontri. Prendiamo qualche altra telefonata e poi risponderemo e faremo il punto. Paolo, che ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. E grazie a tutti. Premetto che fino a qualche tempo fa ero un piccolo imprenditore abbastanza fortunato, perché pagavo praticamente quasi 70.000 euro di tasse ogni anno. Adesso mi ritrovo in crisi con un po' di risparmi e ho una paura, un po' a spendere, proprio perché dico: riuscirò poi a dimostrare che effettivamente sono risparmi e non frutto eventualmente di altra o presunta evasione che qualcuno vorrà addossarmi? Ma al di là di questo, io ho fatto una prova con il Reditest e ho visto, spero che il Reditest sia, anzi non spero che il Reditest sia lo specchio del redditometro, perché ho provato ad esempio di inserire valori per acquisti di beni voluttuari 5-6 volte superiori al reddito e avevo sempre il semaforo verde. Invece, quando ho provato ad inserire un valore tipo 10.000 euro per spese mediche a fronte di 30.000 euro di reddito, avevo il semaforo rosso, e questa cosa è un po' strana, perché non riesco a concepire il peso che vengono date ai vari livelli di spesa. Poi volevo chiedere, il reddito è calcolato sul, il reddito di un'impresa. Io ho una partita IVA e non al netto degli ammortamenti, ovvero se io nel corso degli anni precedenti ho fatto delle spese e mi ritrovo con dei costi non veri in realtà, perché fatti precedentemente, questi mi abbassano il reddito. Il redditometro prende in considerazione il reddito abbassato dai costi degli anni precedenti. Posso dimostrare poi in sede eventuale che in realtà il mio reddito era superiore? Cioè, ci sono degli strumenti o ci troviamo di fronte magari a un professionista, chiamiamolo così, che vuole vedere solo quello che vuol vedere, come mi è capitato talvolta? Sì, qua ci allontaniamo un po' perché queste sono le questioni tecniche, però insomma vediamo se saremo in grado di rispondere magari con Salvatore Padura. Voglio prendere un'altra telefonata, poi andiamo in pausa e poi sentiamo i nostri ospiti. Carlo ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Dunque, per come la vedo io, il redditometro cura il sintomo senza intervenire sulle cause. Le cause sono delle persone, sono la scarsa qualità dei servizi e l'eccessiva pressione fiscale. L'abbiamo perso e comunque si sentiva anche piuttosto male. 9 in punto. Riprendiamo, dunque ci fanno notare anche alcuni ascoltatori, il redditometro non richiede di dimostrare come si è speso, quindi la conservazione degli scontrini, ma da dove vengono i soldi spesi, che è il punto essenziale naturalmente. Passerei di nuovo a Bruno Tinti per chiedergli una risposta alle osservazioni tanto della Sileoni quanto di alcuni ascoltatori. Anche il tema dei consumi, del clima di paura che si è creato intorno a questo strumento, insomma, crea un filo di preoccupazione. Sì, è possibile che sia così. È chiaro che in un paese abituato a contare come margine di profitto sull'evasione fiscale, è evidente che nel momento in cui l'evasione fiscale diventa meno facilmente praticabile, le persone la vivono come una diminuzione del reddito, solo che è un reddito di natura illecita, quindi è ben possibile che coloro che evadevano dicano adesso non posso comprarmi la macchina nuova perché se no mi pescano, ma non credo che dobbiamo tutelare queste situazioni. L'altra cosa, sono contento che molti spettatori l'abbiano rilevata, è questo atto di terrorismo, bisogna conservare ogni scontrino, vado al bar, lo scontrino del caffè. È proprio il contrario quello che fa il redditometro, e quando si riesce a veicolare questa informazione si capisce che il discorso sull'onere della prova è infondato. Il fisco dà una prova, attenzione, non nell'accertamento, non nella sanzione, non nella riscossione, quello fa parte tutto di un momento successivo del procedimento di accertamento e contenzioso davanti alle amministrazioni, alle commissioni tributarie, dà una prova del perché voglio fare un accertamento nei confronti di questo cittadino e non nei confronti di un altro. Semplicemente a me consta, da dati pubblici, da banche pubbliche, da dati sostanzialmente incontrovertibili, che tu hai speso 100, solo che hai dichiarato 50. Per piacere, dimmi da dove vengono gli altri 50. Sia chiaro che se il fisco non è convinto delle spiegazioni che dà il contribuente su questi secondi 50, diciamo così, l'onere della prova di smontare le dichiarazioni del contribuente tocca al fisco. Quindi è una distribuzione della prova assolutamente tradizionale, come l'alibi. Quando si faceva quella rapina io ero in un'altra città. Tocca all'accusa provare che non è vero che eri in un'altra città. Così come tocca al fisco provare che dire questi altri 50 mi derivano da un'eredità non è vero. Che cosa c'è di strano in tutto questo? C'è chi dice, ci scrivono molti ascoltatori via Twitter, in realtà insomma i contribuenti onesti non hanno nulla da temere sostanzialmente. Sulla cosa delle auto ci dicono, chi disdice l'acquisto di una macchina molto probabilmente, scrive Mario De Angelis, è un evasore, io la compro senza problemi perché pago le tasse. Domande ancora da girare alla Sileoni tra un attimo, però vorrei intanto l'opinione di Salvatore Padula, nel suo 24 ore, che è ancora in linea con noi, perché in realtà anche questa storia dell'inversione dell'onere della prova non è chiarissima e si presta a interpretazioni giuridiche diverse anche da questo lato, a conferma tra l'altro della nebulosità dello strumento che dicevamo in apertura, Salvatore, no? Sì, è certamente così, anche perché come hai ricordato tu, diciamo, i giornali su questo hanno ricamato moltissimi. Io penso che onestamente che il professor Tinti abbia spiegato alla perfezione in modo chiarissimo qual è la situazione. È evidente che comunque insomma resterà un tema del quale si discuterà a lungo, tant'è che anche diciamo la Corte di Cassazione, che pur forse la dottoressa Simeoni ha citato, ha nel corso degli anni diciamo preso posizioni leggermente diverse sul tipo di presunzione legata a questi strumenti, quindi sia al redditometro sia all'accertamento sintetico più generale, sia agli studi di settore, che sono uno strumento analogo ancorché non identico e che riguardano altre tipologie di contribuenti. Però mi sembra che forse una cosa che è giusto dire, sentivo la dottoressa Simeoni che parlava del usato il termine Sileoni, Sileoni con la L. Sileoni, prego. Mi scusi tantissimo. Sileoni ha usato il termine consenso. Io penso che il difetto maggiore dello strumento redditometro, così come lo abbiamo visto in questi giorni, è una campagna di comunicazione probabilmente condotta dalla stessa agenzia delle entrate e in qualche misura dallo stesso governo, che ha portato a trasformarlo in uno strumento del quale avere paura. Penso che questa campagna mediatica, insomma in passato, nei mesi scorsi, l'agenzia delle entrate, il direttore Befera, insomma hanno sempre usato questa idea: adesso arriverà il redditometro, vedrete, nessuno sfuggerà più ai controlli del fisco, eccetera. Questa sia una diciamo un approccio al tema dei controlli con il redditometro sbagliato, che ha fatto terrorismo psicologico sulle persone e che sta producendo adesso degli effetti, a mio avviso, un po' esagerati rispetto allo strumento stesso. Io ricordo comunque che stiamo parlando di uno strumento con il quale l'Agenzia delle Entrate l'anno prossimo, cioè quest'anno 2013, farà 35.000 controlli su 40 milioni di contribuenti. Vuol dire che grosso modo le posizioni controllate saranno 70.000, 75.000, no, e solamente 35.000 poi diciamo verranno trasformati in accertamenti o cose del genere. Quindi stiamo parlando veramente di un 1, virgola, di uno 0, virgola. No, quindi non lo so, il problema dei risparmi, ho sentito qualche ascoltatore, sì, anche la dottoressa, che lo ricordavano. Però scusate un attimo, i risparmi, ma io non ho nessun problema a dimostrare attraverso i miei gli estratti conto delle mie banche, delle mie posizioni finanziarie, da dove arrivano i quattrini che ho risparmiato nel corso degli anni. Cioè io non capisco quale sia il timore, anzi devo dire che tra qualche settimana, tra qualche mese, l'amministrazione finanziaria avrà questi dati a disposizione senza neanche venirmi a chiedere, perché tutte le banche e le altre istituzioni finanziarie comunicheranno annualmente all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno, le posizioni dei conti correnti di tutti e di tutte le altre posizioni finanziarie di tutti i contribuenti. Quindi io non lo so, penso che ci sia un problema di percezione dello strumento un po' sbagliato, un po' di allarmismo, e una campagna mediatica comunicativa dell'Agenzia delle Entrate è sicuramente sbagliata. Sentiamo qualche altro ascoltatore, poi torneremo dalla Sileoni, alla quale voglio girare, oltre alle osservazioni di Padula, anche le osservazioni di qualche ascoltatore che, come dicevo, ci ha scritto via Twitter, e probabilmente qualche osservazione anche degli ascoltatori che ci stanno chiamando in questo momento all'800 24 00 24. Iniziamo da Mario, che ci chiama da Treviso. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Chi mi ha preceduto mi pare abbia riassunto perfettamente un po' tutto quello che volevo dirvi. Effettivamente la stragrande maggioranza, diciamo, dei contribuenti ha una busta paga, ha un reddito che finisce in conto corrente, non ha nulla da preoccuparsi da questo strumento, il redditometro. Chi si deve preoccupare veramente? Chi sostiene che non possono essere giustificati dalle proprie entrate di conto corrente? Sono quegli evasori che sfuggono al fisco, che stanno. Per cui non credo che diciamo le verifiche preventive su semaforo rosso, semaforo verde, cioè, su cui poi l'agenzia si concentrerà, farà un di quelle che sono le situazioni più anomale, e su quelle dovrà ricadere sicuramente quell'insieme di soggetti che hanno delle entrate estremamente inferiori rispetto a spese e stili di vita diciamo non coerenti. Grazie, ecco, Mario, grazie Mario, grazie Mario, la interrompo anche perché la perdiamo abbastanza spesso, insomma la linea non era ottima. Voglio sentire anche Daniele che ci chiama da Verona, sempre dal Veneto. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Prego. Senta, per non ripetere le cose, io sono un agente di commercio, vendo articoli di lusso, per cui so cosa sta succedendo in tutti i settori, dall'abbigliamento a oggettistiche importanti, e parlate sempre di automobili. Io dico, sapete che ci sono stati dei cali mostruosi da quando è stato accanito, come diceva il signore prima, che l'agenzia è diventata uno strumento di timore. Sono successe due cose. Uno, ci sono stati dei cali di vendite vertiginosi perché anche la gente onesta ha preso paura a spendere soldi importanti. Ma la cosa che io non ho mai sentito, sapete che molte agenzie di viaggio in Svizzera, in Austria, in Francia, in Inghilterra, o beni di lusso, di abbigliamento, di oggettistica all'estero hanno avuto gli incrementi del 20-30% perché gli italiani con un biglietto aereo di andata e ritorno di 50 euro spendevano decine di migliaia di euro perché si può passare la frontiera. Ditemi che tipo di controlli succede. Noi siamo in ginocchio col lavoro in Italia. Io faccio questa domanda a tutti, se potessi avere una risposta. Grazie anche per il suo intervento, Daniele. Tra l'altro parlava di timore, in effetti ci ricorda un ascoltatore sempre via Twitter che Befera, lo stesso Attilio Befera, a conferma poi di quello che ci diceva Salvatore Padula, insomma un po' di questo clima di terrore che forse la stessa agenzia ha voluto incutere, parlò, e siamo nel gennaio 2011, non riferito al redditometro ma riferito in generale alla lotta all'evasione, bisogna incutere un sano timore negli evasori, ma evidentemente l'effetto si è avuto anche sui non evasori. Vorrei sentire un'altra telefonata e poi magari andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade e riprendiamo con i nostri ospiti. Andrea ci chiama da Modena, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io ho fatto per anni partita IVA, adesso sono un normalissimo dipendente. Ma da parità IVA vedevo la dichiarazione dei redditi come un'enorme sciocchezza. Mi sarebbe piaciuto avere tutto automatizzato e che il fisco italiano potesse prendere tutti i dati direttamente dal mio conto corrente e tutte le transazioni e autocompilare il modulo, e poi giusto avrei dovuto verificare che fosse corretto. Avrei risparmiato anche quei 2.000 euro di commercialista che sinceramente mi sarei tenuti per me. Detto questo, mi sembra che comunque chi critica in senso assoluto alcuni strumenti come il redditometro, senza andare nello specifico, oppure l'IMU, e lo faccio un po' con la coda di paglia, perché è chiaro che chi paga 100.000 euro di IMU probabilmente sui suoi redditi di tasse non paga quello che deve pagare, perché sicuramente li avrà girati su dei trust con sede all'estero, mentre le case non si possono spostare all'estero, e quindi mi sembra che ci sia molto la coda di paglia. E sicuramente vorrei chiedere all'agente di commercio di prima com'è che pagavano questi beni di lusso all'estero con dei conti correnti all'estero, perché il dubbio mi sembra che sia legittimo, assolutamente legittimo. E poi vedo come tutti noi che viviamo nel mondo di tutti i giorni, come grazie a questi strumenti magari le imprese edili che ci ha ristrutturato casa, mentre prima ci avrebbero posto di pagare il 50% dell'importo in nero, perché aveva agilmente la possibilità poi di poter spendere questi soldi l'imprenditore in contanti dove gli facesse comodo, adesso è meno splendido nel fare queste proposte, proprio perché avere dei soldi in nero da spendere diventa più difficile. Quindi mi sembra che tutti questi strumenti qua stiano funzionando, e gli unici che se ne possono lamentare sono effettivamente quelli che abbiano un po' la coscienza sporca. Grazie Andrea. 9 in punto. Come si diceva prima della viabilità, ampiamente sollecitata sul tema redditometro la posizione di Serena Sileoni. Sileoni, io le chiedo di rispondere a un po' di ascoltatori, insomma, quelli che dicono, insomma, chi è onesto non ha nulla da temere, e anche a quello che dice, che dicono Tinti e Padula. Prego. Allora, partiamo dagli scontrini. La questione è che è terrorismo psicologico dire che bisogna tenere gli scontrini, perché in realtà l'anagrafe tributaria fa sì che il cittadino, il contribuente, debba provare soltanto da dove vengono i soldi che ha speso. In realtà la grande novità di questo redditometro rispetto al precedente è il fatto che per più della metà delle macro aree di spesa il fisco può servirsi non dei dati concreti reali di acquisto, ma di medie statistiche. Questo fa sì che metà del profilo possa essere ricostruito su dati medi e non sui dati precisamente tarati sul contribuente che si sta osservando. Sì, non solo, e la fermo Sileoni, non solo, ma in realtà prende la cifra più alta, cioè se le spese verificate tecnicamente, praticamente, con ricevute, scontrini, con la conoscenza tramite anagrafe tributaria, sono più basse della media Istat presunta per quel territorio, per quel tipo di famiglia, eccetera, eccetera, si prende la fascia più alta, quella statistica. La motivazione è evidente, perché la stessa Agenzia delle Entrate ha capito bene che tenere gli scontrini porta anche a un effetto, se vuole, di nero, nel senso che io chiederò al mio parrucchiere di mettermi in ricevuta 30 euro anziché 50, e allora si prende la media statistica più alta. Questo inevitabilmente, se il contribuente si deve difendere, in qualche modo si dovrà pure difendere quando viene chiamato dall'Agenzia delle Entrate, fa sì che se vuole fare le cose per bene, se non vuole se non vuole essere costretto a procedere a un accertamento con adesione, si dovrà tenere le ricevute. Ecco perché la questione degli scontrini non è poi così campata in aria, per la questione delle medie statistiche, che poi non sono soltanto le medie Istat. Il decreto parla anche di altre medie che non si sa che cosa siano, quindi lasciando campo libero all'attuazione del decreto dell'Agenzia delle Entrate. E qui veniamo anche al problema della presunzione. È vero che queste medie, dice la Cassazione, da come si può interpretare l'impostazione della Cassazione, non hanno sono una presunzione semplice, quindi non bastano a fare prova contro il contribuente, però lo sta dicendo una interpretazione di un orientamento della Cassazione. Io preferirei che lo dicesse la legge. Io preferirei che il decreto fosse un po' più chiaro su quali sono queste medie, su come possono essere utilizzate e su che valore probatorio hanno, perché la legge serve proprio per limitare l'agire della pubblica amministrazione. Allora, questi giorni si sta sentendo, ma il redditometro non è poi così avulso da uno stato di diritto, bisognerà poi vederne l'applicazione. No, io preferisco capire prima che cosa la legge consente all'Agenzia delle Entrate e poi tranquillizzarmi. Per quanto riguarda la questione delle coscienze sporche, quindi del fatto che se siamo puliti nei nostri doveri fiscali non ci dobbiamo preoccupare. Do soltanto un dato per smentire questa idea che possiamo stare tranquilli se ci comportiamo bene. La metà delle cause che finiscono in commissione tributaria vedono l'amministrazione fiscale parzialmente soccombente, il 30% la vedono totalmente soccombente, quindi non è vero che quando il fisco mette un occhio sopra le nostre spese ha sempre ragione e possiamo stare tranquilli se ci siamo comportati sempre bene, visto poi che almeno per il 30% delle volte le commissioni tributarie su media nazionale ci danno completamente ragione, su circa il 50% delle volte ci danno parzialmente ragione, quindi probabilmente il fisco si sbaglia qualche volta in più di quella che non immaginiamo. Una telefonata brevissima, prendiamo Carla che ci chiama da Milano. Buongiorno, molto compatta Carla. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno, sono professionista a Milano e concordo assolutamente con il contenuto dell'intervento della dottoressa, anche perché spesso e volentieri mi occupo di contenzioso, anche ultimamente ho fatto una mediazione tributaria per un accertamento da redditometro di una contribuente che aveva ricevuto un indennizzo di 1,5 milioni di euro e che per la quale l'Agenzia delle Entrate ha caparbiamente voluto la documentazione analitica di tutti gli scontrini fiscali che aveva sostenuto nel 2006, 2007, 2008, perché riteneva che non fosse stato sufficientemente provato che effettivamente queste somme provenissero da un indennizzo. Tutto questo per dire che l'applicazione del reddito redditometro è assolutamente non a favore del contribuente, bensì l'Agenzia delle Entrate che si prende tutte le libertà di questo mondo. Spero che il nuovo non sia così, ma quello che si sente in giro non lascia ben sperare. Vedremo che cosa succederà. Oggi, come si diceva, ci dovrebbe essere l'incontro tra Monti e Befer, ne dovrebbe uscire la circolare applicativa. Per non spargere il terrore, ricordiamo ancora una volta, come ha fatto poco fa Salvatore Padula, che i controlli dovrebbero riguardare complessivamente 35.000 persone, quindi insomma diciamo i numeri non sono altissimi. Ringraziamenti Eleonora e Sabrina, al centralino Carmelo Lauricella, in regia, in assistenza Franco Piantanida, e in redazione Alessandro Marco Tulli. Se volete seguitemi su Twitter, Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24. La passione si sente.